Le 14 in punto. Giovedì 6 agosto del 2009, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Visionari su Radio Onda Rossa. Dal 1977 senza padrini politici, senza padroni economici. L'appuntamento settimanale con il cinema, come ogni giovedì, dalle 14 alle 15, oggi ultima puntata prima della pausa estiva, si riprenderà nell'ultima settimana di agosto. Comunque, tutte le informazioni con il link per riascoltare la puntata precedente e poi gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico, poi i nostri suggerimenti sui film già in programmazione in sala a Roma e nel Lazio, il link per dare un'occhiata a interviste e recensioni e poi la programmazione per quanto riguarda i film sul piccolo schermo, potete trovarli sul sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Oggi forse un po' in formazione ridotta, ma d'altronde. Comunque dovremmo avere diversi ospiti per quanto riguarda documentari e per quanto riguarda nello specifico il Festival di Locarno. E poi qualche visionario per il nostro visionario per i saluti e qualche considerazione così sul periodo cinematografico. Rimanete in ascolto. Pomeriggio a Federica Di Giacomo, regista del documentario Housing. Pronto? Sì, ciao. Eccoci. A tutti. Come stai? Bene, voi? Tutto bene, tutto bene. Allora, il tuo documentario sarà in programma il 9 e il 10 agosto a Locarno. Intanto, per chi ci ascolta, diciamo di cosa si tratta. Sì, Housing è un documentario su una situazione che io ho incontrato a Bari, grazie anche a Antonella Gaeta, che è una giornalista di Repubblica che è stata la coautrice, e una situazione veramente paradossale che riguarda la casa, in questo caso popolare, cioè una specie di guerriglia urbana provocata dal fatto che da 21 anni a Bari non davano case popolari, non assegnavano nuove case popolari. E quindi, essendoci ancora 3.000 famiglie in graduatoria, chi ancora aspetta la casa spesso si mette in condizione di cercare di occupare la casa a chi ce l'ha già assegnata. Quindi si crea una situazione per cui i legittimi assegnatari, soprattutto quelli che diciamo sono soli, spesso anziani e quindi non hanno una famiglia a carico, si devono difendere da un possibile attacco. In realtà poi non ci sono né buoni né cattivi, perché chi attacca è della stessa situazione sociale di chi. Quindi è solo un problema causato da un circolo vizioso del sistema, che ha provocato un'attesa così grande, per cui c'è addirittura uno scatto generazionale, per cui intere famiglie con bambini, soprattutto donne con molti bambini a carico, si trovano senza casa e cercano una strada, iniziano ad addocchiare una specie di passaparola alle case possibili, che sono appunto quelle in cui i legittimi assegnatari magari si possono assentare per motivi di famiglia, per brevi periodi, anche per 2 o 3 giorni. Quindi si è creata una situazione veramente un po' assurda, che tra l'altro non è solo di Bari, perché c'è anche a Palermo, c'è anche a Milano, si sta un po' diffondendo questo tipo di tensione, ecco. Come dicevi prima, però rispetto alle responsabilità a monte ce ne sono. Ma quello che io ho scoperto indagando insomma il tema è che veramente c'è un problema di edilizia popolare enorme. In Italia c'è il 6% di edilizia popolare, mentre in tutta Europa la media è del 30%. Mm-hmm. E ci sono liste d'attese infinite, e quindi c'è una carenza reale alla base di tutto questo. Poi è chiaro che ci sono situazioni particolari per cui in certi quartieri in cui c'è un alto tasso di criminalità, diciamo, ci sono delle metodiche che forse sono più, diciamo, arrivano alla lotta di forza, però veramente quello che ho visto è che anche chi occupa, perché io ho il documentario è solo, diciamo, per unità narrativa, ritrae le storie di chi si difende, però in realtà noi siamo stati molto anche con chi occupa. Mm-hmm. E chi occupa sta in una situazione per cui, con un marito disoccupato, i figli spesso disoccupati, non hanno alcun altro bene da conquistare, da difendere, che non sia la casa. Tra l'altro una casa popolare in appunto casermoni di periferia in cui non ci sono infrastrutture, però in cui se perdi la casa non hai proprio altro, per cui diciamo diventa proprio il tema centrale della vita. Mm-hmm. Oh, mi hai detto che c'è una giornalista di Repubblica come coautrice di questo tuo lavoro. Sì. Volevo sapere come è partito il tutto. Tu eri andata a Bari già sapendo di questa situazione e alla ricerca di queste vicende, oppure è una cosa che hai scoperto andando dietro ad altro? Volevo fare un documentario sulla casa. Sì. Più che altro sull'ossessione della casa, che mi sembrava molto trasversale in tutta la, diciamo, la nostra società. Sì. Che è però molto difficilmente rappresentabile. Quando sono andata a Bari per altri motivi, perché frequento Bari da molti anni, ho incontrato Antonella e parlando mi ha fatto vedere questa situazione. La cosa interessante era che appunto essendo una conquista di spazio, dava molti punti di rappresentazione. Poi piano piano abbiamo trovato dei personaggi molto interessanti che restituivano proprio l'emozione, cioè l'emozione di persone magari che aspettano per 20 anni, nel corso dei quali perdono molti dei loro affetti e si ritrovano dopo 20 anni ad avere l'oggetto del desiderio, però lontano da dove sono sempre vissuti, soli e in costante tensione, perché diciamo hanno paura di perderla. Quindi in un certo senso era proprio un'emozione che mi sembrava potesse essere, come dire, riconoscibile, in cui ci si poteva identificare. Infatti anch'io mi sono identificata in questo tipo di chiusura, no? Di prigionia. Questo, così è nato il film. Come hai strutturato il lavoro? Nel senso, hai seguito il quotidiano di queste persone, come dicevi, soprattutto chi difende la propria casa, ma anche chi occupa, e quindi hai vissuto il loro quotidiano e l'hai miscelato con interviste, oppure come hai fatto? No, io in realtà non amo le interviste, okay, non amo le voci off. Mi piace più seguirli, conquistando più tempo possibile per stare più tempo possibile di ripresa, stare con loro e diciamo lasciarmi prendere da quello che loro fanno. L'idea è che più diciamo ci si rende invisibile, quindi più si entra in un'intimità e maggiori sono le sorprese diciamo di rappresentazione nel senso poetico, anche nel senso di alcune magie che vengono fuori, di alcuni dialoghi che loro riescono a creare proprio perché si sentono a loro agio e quindi non hanno più la paura della videocamera. In questo tra l'altro il montaggio di Jacopo Quadri, che appunto è stato montatore, è stato molto importante perché credo siamo riusciti a dare al film un ritmo che fa dimenticare molto la regia e invece lascia completamente entrare in questa specie di danza, diciamo, l'abbiamo concepita un po' come una sinfonia di personaggi che entrano e escono in questa lotta per qualcosa che non si sa se avrà successo, perché diciamo il risultato spesso non è consolatorio, ecco. Senti, volevo a questo punto chiederti rispetto al Festival di Locarno, poi hai previsto anche un altro iter festivaliero, una eventuale uscita in sala, distribuzione? Sì, dunque il film andrà a Locarno questo weekend, sì. E poi avrà una prima italiana, non so ancora se a Roma o a Torino, però sicuramente avrà una prima italiana, essendo coprodotto da Rai Cinema ci sarà sicuramente un'uscita in DVD. Ora l'uscita in sala è una cosa per i documentari talmente utopica, sì, che non possiamo ancora darla per certa, però certo. ci lavoreremo il più possibile. Mi è venuto in mente, sentendoti nella risposta precedente, volevo chiederti anche, sono presenti in qualche modo le istituzioni in questo tuo lavoro, proprio nelle riprese? Sì, le istituzioni sono venute fuori anche in questo caso da dentro, nel senso che uno dei personaggi, che è una signora, diciamo con un livello di istruzione abbastanza alto, rappresenta un po' nel film questa ricerca di lotta attraverso la legalità ed è una vera e propria inseguitrice di cariche istituzionali per perorare la sua causa. Quindi abbiamo iniziato questo percorso per cui dall'impiegato più semplice dello IACP si arrivava addirittura al sindaco di Bari. Quindi sono venute fuori in modo spontaneo e secondo me sono una risorsa del film, nel senso che la predisposizione italiana a iniziare a tampinare le istituzioni è molto diffusa e per lo più perdente, però è il confronto con la burocrazia è una parte importante di questo di tutti i problemi che poi i cittadini mediamente hanno, specialmente al sud. Quindi è venuta fuori spontaneamente, devo dire è una forse delle fasi più comiche del film. Senti, una volta affrontato in maniera approfondita questo problema della casa, nello specifico a Bari, sono emersi ipotesi di soluzione in quello che hai visto, in quello che hai sentito dire? Ma diciamo da parte loro la soluzione è semplice, cioè avere snellire le graduatorie, anche perché appunto ci si mette tanto tempo ad assegnare le case, che spesso poi si arriva ad assegnare le case a persone morte, persone che non hanno più bisogno, quindi c'è un problema burocratico di base e poi c'è un problema reale in cui mancano le case, che però io personalmente non credo assolutamente che sia risolvibile con la cementificazione, perché questo almeno da quello che ho visto a Bari ma anche in molte altre città, se queste zone di periferia non vengono poi dotate di infrastrutture, diventano molto facilmente il luogo della criminalità. E quindi per chi ci vive in realtà diventa appunto il raggiungimento di uno scopo concreto e di una necessità vera, ma diventa anche una qualità di vita insostenibile. Quindi credo che sia veramente più un problema di qualità che di quantità e di gestione del patrimonio di diritto popolare in Italia. Ecco. Federica, in ultimo hai dei riferimenti internet per questo lavoro, per chi volesse saperne di più? Sì, allora c'è il sito della casa di produzione che è bbfilm.tv e c'è un gruppo già su Facebook che si chiama Housing. Ok, va bene, allora in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Federica Di Giacomo, regista del documentario Housing, in programmazione al al Film Festival di Locarno il 9 e il 10 agosto prossimi. Andiamo avanti con gli ospiti, sempre per documentari e sempre per Locarno. Collegamento con Massimo Danolfi e Martina Parenti, registi del documentario Grandi Speranze, in programmazione al Festival, al Film Festival di Locarno il 12 agosto. Ben trovati. Buon pomeriggio. Come va? Bene, tutto, siamo contenti di tornare. In spostamento. Sì, in spostamento, siamo in un parco. Per allora parleremo intanto con te, ma poi anche con Martina. Con un unico telefono. Allora, dici un po', intanto approfondiamo l'argomento, anzi diciamolo per chi ci sta ascoltando. Allora, noi abbiamo fatto un film documentario dal titolo Grandi Speranze ed è un lavoro sui giovani imprenditori italiani, o meglio su tre storie in particolare, perché i nostri protagonisti si chiamano Antonio Ambrosetti, il figlio di Alfredo Ambrosetti, il consulente, noto consulente italiano che organizza l'evento a Villa d'Este a Cernobbio, scenario dove insomma, normalmente si discutono i grandi scenari della politica e dell'economia, non solo nostrana. E abbiamo scelto Antonio Ambrosetti perché organizza un corso che si chiama Leader del Futuro, che inizialmente era destinato ai giovani ramponi, insomma l'idea del Leader del Futuro iniziale era formare figli di imprenditori e tentare di non fargli disperdere patrimoni accumulati dalle famiglie. Ora si è un po' evoluto, quindi oltre ai figli di imprenditori ci sono anche vari manager. Poi c'è, e questo è un episodio che segue la formazione. L'altro episodio è invece su Federico Morgantini, che sta tentando di aprire una fabbrica di acqua minerale gassata in Cina, perché in Cina non si beve l'acqua imbottigliata come in Italia, anche per fortuna, però ovviamente vede una rete terminata di consumatori e quindi penso che sia il business del futuro, e quindi tenta di comprare una fonte nei pressi del Tibet, ma insomma questo è quello che segue, il percorso che seguiamo nel film. Sì. E il terzo episodio invece è Matteo Storchi, che ha un'azienda di famiglia che è meccatronica, fa componentistica per macchine agricole, industriali, fa le eoliche, e lui invece ha già una unità produttiva a 3 ore da Shanghai, è un direttore commerciale mondiale dell'azienda di famiglia e tenta, insomma, nel suo episodio lui tenta di formare significati cinesi in interminabili riunioni, diciamo, con lui ovviamente parla inglese, insomma c'è anche qualche problema, no? Nella comprensione, diciamo. Questo più o meno è il percorso del film, però insomma il film segue una, sono 3 episodi, però in qualche modo uno rimanda all'altro, insomma, come dicevo c'è la formazione nel primo, il tentativo di mettersi una fabbrica nel secondo, e un po' come gestire invece un'impresa nel terzo. Okay. Questo è il percorso del film. Quindi un meeting italiano e due storie di aziende in Cina. Come, allora, la prima domanda chiaramente è come vi siete mossi per scegliere queste tre storie nello specifico? Allora, noi abbiamo fatto un lavoro di ricerca, anche aiutati da un cacciatore di teste, perché all'inizio un episodio prevedeva anche la presenza di un cacciatore di teste. In realtà poi del cacciatore di teste è rimasto ben poco, perché sono rimaste appunto queste tre domande che a ognuno dei tre protagonisti scelti. Però appunto abbiamo incontrato vari giovani imprenditori. L'unico criterio che ci eravamo dati era quello che insomma c'è nello statuto dei giovani imprenditori italiani, l'industria giovani, ossia in Italia sei un giovane imprenditore fino a 40 anni, con più di 40 anni non sei più un giovane imprenditore. Allora abbiamo scelto tutte storie di persone al di sotto dei 40 anni, e come ti dicevo prima, insomma, loro tre ci hanno colpito proprio perché ognuno di loro aveva, come dire, era abbastanza emblematico per la situazione scelta, ossia la formazione. Ambrosetti credo che in Italia insomma fa un corso che sia leader del futuro, quindi insomma non potevamo non seguirlo, insomma, quindi Ambrosetti fondamentalmente per questo. Federico ci piaceva perché fondamentalmente lui aveva un'ambizione grandissima, perché quando l'abbiamo conosciuto noi lui voleva aprire una fabbrica di marmitte catalitiche sempre in Cina, e poi si è trasformato in acqua minerale gassata perché la fabbrica di marmitte non è andata in forno. E il terzo invece ci piaceva proprio questo aspetto già consolidato, insomma, non dico che è arrivato, però un'impresa che fa un fatturato di 500 milioni di euro all'anno, tantissimi operai da gestire, quindi insomma ci incuriosiva capire come si muoveva, come si relazionava con questo. Senti, ci spieghi un po' meglio come è partita l'idea di questo viaggio a scoprire la classe dirigente del futuro? Sì, ok, allora questa domanda ti passo Martina, ti sì, rispondo. Ok. Pronto, buongiorno. Oh, buon pomeriggio. Come stai? Molto bene, voi? Bene. Siamo sull'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva, sì. Poi riprenderemo insomma a fine mese. No, chiedevi com'è nata l'idea? Com'è nata l'idea, sì, rispetto alla classe dirigente del futuro, insomma. Allora, naturalmente è nata un po' per caso, perché poi le cose avvengono anche un po' per caso. Ci è capitato una sera di incontrare una persona che faceva parte della Confindustria Giovani, dei giovani industriali. E allora, parlando con questa persona, che poi non c'è nel film, che non è mai stata neanche intervistata, però tutti e due abbiamo avuto così l'immagine così di questi che stavano già lavorando per il futuro, oppure che avrebbero avuto delle cariche importanti. E allora ci siamo domandati com'erano le persone che tra qualche anno saranno protagoniste dell'economia di questo paese, oppure se hanno la stoffa, in grado di sostenere le responsabilità del ruolo. Allora abbiamo voluto così indagare questo aspetto della società. Poi, insomma, era la combinazione di giovani e di imprenditoria, ecco. Oh, rispetto all'idea di partenza, cosa vi siete trovati di fronte? Beh, uno quando fa un documentario credo che è sempre molto aperto. Certo. Verso la strada, non è mai una strada diritta e definitiva, per cui sì, il soggetto che avevamo scritto era sicuramente parlava di Antonio Ambrosetti, dei leader del futuro, ma questo era proprio così, per, come diceva anche Massimo, per il nome anche, no? E nel soggetto già c'era questo Federico Morgantini, perché ci sembrava un'occasione d'oro seguire una persona che vuole mettere in piedi una fabbrica, e poi però, sempre come diceva Massimo, questo cambiamento da marmitte a acqua minerale è una cosa che ci ha sorpreso piacevolmente nel film. E allora queste due personaggi c'erano già nel soggetto, il resto è avvenuto in corsa. Ma è bello di fare il film documentario. Sì. Senti, l'approccio rispetto alla forza lavoro com'è? In che senso? Rispetto, per esempio, stiamo parlando di due fabbriche, una in fase di di creazione, l'altra già avviata in Cina rispetto, ecco, agli operai che ci lavorano, qual è l'atteggiamento? Noi abbiamo fatto un film sugli imprenditori, ma non si vedono mai le fabbriche. Per cui non ti so rispondere. Apposta l'abbiamo fatto senza che si vedessero le fabbriche. Mm-hmm. Senti, invece allora a questo punto ti chiedo la testa di queste persone. Cosa hai scoperto rispetto ai sogni, alla formazione? Credo che abbiamo scoperto, no, non è una grande scoperta, che fare l'imprenditore è un mestiere molto duro, che richiede grandi responsabilità e che se uno non ha la stoffa è meglio lasciar perdere. Mm-hmm. Però adesso ti passo Massimo, magari vi ho scoperto queste cose. Buone vacanze, grazie. Ciao anche a te. Ciao. Sì, no, allora no, provo a spiegare meglio questo discorso delle fabbriche, nel senso il nostro ci siamo resi conto di non firmare le fabbriche perché ne abbiamo avuto l'occasione in Cina, sì. Però insomma, siccome il nostro non è un film di richiesta, di denuncia, è un film in cui proviamo a seguire delle storie e mettere in scena, sì, un percorso, insomma, allora insomma filmare quello che volevamo farci vedere non ci interessa, e a vedere per 5 minuti degli operai al lavoro, devo dire le abbiamo viste noi, un paio di fabbriche, una in Italia e una in Cina. Quella in Italia, quella che abbiamo visto noi, era vista molto peggio rispetto a quella cinese, uh-huh, sotto ogni punto di vista, e questo chiaramente non vuol dire che le fabbriche italiane sono peggio di quelle cinesi, ma nel nostro caso è andata così. E ovviamente in Cina il lavoro costa meno, il motivo è triste vedere che fondamentalmente si va in Cina perché è l'unica via di fuga per tornare alle imprese occidentali, questo non c'è dubbio, abbiamo incontrato questo, c'è un pensiero dietro, chiaramente la Cina è una realtà molto molto più complessa, il lavoro costa proporzionalmente meno al cambio, cioè il cambio 1 a 10 e loro un operaio costa 100 euro grosso modo, Italia passa 10 volte in più come minimo, quindi questa è l'unica cosa che abbiamo visto, però nel film tutto questo non c'è, proprio perché noi volevamo tentare di indagare proprio loro, okay. Loro infatti la domanda che facevo a Martina era quali sogni, quali formazione hanno queste tre persone che nello specifico avete seguito? Molto diversi da loro, però sì, sicuramente il nostro non è un film edificante, anzi un film da questo punto di vista alla fine abbastanza sconfortante, ma non a prescindere dai tre episodi che noi abbiamo scelto. Il quadro, sì, è desolante perché non abbiamo incontrato un Adriano Olivetti, ecco, ci eravamo chiesti chissà se incontravo una persona come Olivetti che ha degli asili, no, non l'abbiamo incontrato, insomma, mm-hmm, di responsabilità sociale ci sembra, e anche la visione non sembra particolarmente, no, ecco, siamo arrivati fino in Cina, però non ci siamo allontanati molto dai padri italiani. Chiaramente quando intendo padri italiani non parlo di loro, ma parlo di un modo di fare impresa che c'è stato in Italia, che sicuramente non è lungimirante, mm-hmm, per nessuno credo, no? Ecco, la mancanza di lungimiranza è l'aspetto più negativo che hai riscontrato o c'è anche altro? No, insomma, ripeto, non essendo un film che voleva, come dire, sottolineare questo, no, non è quello, l'aspetto forse più negativo è proprio non capire l'importanza del ruolo, cioè essere un imprenditore è un ruolo complesso, mm-hmm, mm-hmm. Quindi una sottovalutazione. Sì, secondo me sì, non c'è, infatti il grosso problema in Italia era quello appunto le aziende si ereditano o non si ereditano, allora adesso da un punto di vista intellettuale nei convegni sentirei tanti, ieri ho visto un'intervista a un imprenditore abbastanza lungimirante che diceva non si ereditano, però sai, si dicono queste cose, si insegna a dire, però poi nei fatti spesso non è così, ho capito, bisogna ereditarsi e al comando delle aziende continuano ad esserci i figli degli imprenditori, magari anche se non hanno le capacità, questo credo che sia innegabile, però è una situazione complessa. Familismo aziendale, insomma. Sì, sì, pure se non è un problema solo italiano, ecco, abbiamo capito che è italiano, sì, un po' c'è un po' in tutto il mondo, però in Italia sì, è abbastanza forte perché sono tante le piccole e medie aziende, quindi chiaramente le medie aziende questo meccanismo attecchisce più facilmente. Sì. Senti, volevo chiederti, avete pensato a eventuali passaggi televisivi oltre che un percorso festivaliero, e poi se c'è un sito internet in cui poter saperne di più? Ok, allora il film è stato realizzato anche grazie a un preacquisto di Rai Cinema, quindi questo perché teoricamente la Rai ha, insomma, 5 passaggi televisivi, però noi non sappiamo quando, come il film andrà in onda. Infatti c'è stato un preacquisto di Rai Cinema, quindi teoricamente dovrebbe andare in onda su un canale Rai. E il film, no, noi non abbiamo un sito internet, però insomma il film si chiama Grandi Speranze, quindi credo che qualsiasi motore di ricerca delle notizie si possono avere, però attualmente non siamo ancora attrezzati, anche perché la distribuzione effettivamente è proprio, secondo me, l'anello mancante. Attualmente c'è molto in Italia, anche con grossi sacrifici, con pochi mezzi, pochi soldi, però invece dal punto di vista distributivo c'è una situazione piuttosto catastrofica, un po' perché i documentari in Italia quasi sempre non escono in sala, e i festival fanno un grande lavoro, però ora non bastano esaurire la visibilità di un lavoro, perché poi se vai in 10 festival al fine lo vedono 2000 persone al massimo. Sì. Non è, e seguire il film e accompagnarlo in giro per l'Italia è una cosa che si può fare, però diventa un altro lavoro. Sì. E noi stiamo decidendo girare, quindi alla fine insomma li finiamo i film e poi siamo molto bravi nella terza fase della distribuzione. Bene Massimo, allora in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo, grazie a te. Ciao, un abbraccio. Buona giornata. La ricezione era un po' quello che era, ma d'altronde sono in movimento i due registi Massimo Danolfi e Martina Parenti per il documentario Grandi Speranze, che sarà in programmazione al Festival di Locarno il 12 agosto. Riproviamo adesso con un terzo regista, un quarto, visto che ne abbiamo già sentiti tre, sempre per quanto riguarda Locarno. Benvenuto Stefano Savona, regista del documentario Piombo Fuso, in programmazione al Festival di Locarno l'11 agosto. Ciao. Ciao a tutti. Come va? Bene, un po' appena finito, praticamente il documentario l'abbiamo finito adesso di montare, quindi diciamo prendo 3 giorni di vacanza prima del festival, praticamente. Quindi riposo un po', finalmente. Il titolo riprende il nome dell'operazione con cui Israele diede il via all'attacco a Gaza praticamente qualche mese fa. Sì, perché il film cerca di raccontare assolutamente dall'altro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi l'ha subita questa questa operazione, proprio l'operazione Piombo Fuso. Io ho cercato di entrare lì e alla fine ci sono riuscito e ho cercato di mostrare quello, o meglio di montare quello che avevo visto che ero riuscito a filmare, né più né meno, cioè più o meno è stato questo il lavoro. Quindi ho cercato anche un titolo che fosse il più neutro possibile, che non che indicasse quella cosa con una precisione, con questa strana precisione poetica che hanno scelto quelli che l'hanno scagliato. Senti, il periodo delle riprese coincideva proprio con quello dell'attacco? Sì, purtroppo non sono riuscito ad entrare subito, quindi il periodo di riprese sono sostanzialmente gli ultimi 4 giorni dell'attacco su Gaza. E noi siamo, no, in realtà le riprese sono anche da partire da una settimana prima, però al di là del confine, perché noi siamo arrivati in Egitto i primi di gennaio e abbiamo cercato ogni giorno di passare e non si riusciva a passare, siamo riusciti a passare soltanto il 14 e la guerra è finita il 18, quindi le riprese iniziano verso il 4-5 gennaio al confine egiziano e poi durano sino al 18, che è stato l'ultimo giorno dell'offensiva. Cosa ti sei trovato di fronte? Ma innanzitutto una comunità che è ancora solida, perché quello che uno non immagina al di fuori di una guerra è che poi la vita in un posto come Gaza, che è grande quanto la metà del comune di Roma ed è abitatissimo, cioè uno dei posti più abitati del mondo, per cui la vita continua sostanzialmente, ci sono delle città, delle macchine, delle persone che camminano, della gente che va, che esce per strada, che va a fare la spesa, quindi c'è una paradossale normalità della vita quotidiana, però in un posto in cui durante il giorno cadono centinaia se non migliaia di bombe, quindi quel tentativo delle persone di fare come se niente fosse, nello stesso tempo la guerra che ti viene a cercare anche a casa, cioè non ti risparmia, perché appunto quello che era chiaro lì è che l'attacco dall'alto fosse totalmente o quasi totalmente indiscriminato. Mm-hmm. Uno dei racconti del primo giorno era che ci raccontavano quando avevano distrutto nel primo giorno di guerra, avevano distrutto tutte le stazioni di polizia, però in questo fatto avevano distrutto anche le stazioni del traffico, dei vigili, per cui alla fine erano stati considerati militanti di Hamas tutta una serie di poliziotti stradali che erano quelli che tenevano un po' a bada l'impossibile circolazione di Gaza. Cioè adesso non si circola più perché hanno ucciso tutti i poliziotti stradali e i vigili il primo giorno della guerra. Mm-hmm. Perché c'erano anche questi paradossi per cui chi fa parte di Hamas e chi no. Questa una delle cose che si poteva vedere fin dall'inizio era come fosse quasi impossibile capire chi era di Hamas e chi no, anche stando lì. Figuriamoci scagliando dei missili da 6-7 mila metri di altezza. Mm-hmm. Oh, ecco, rispetto ad Hamas, alla presenza di Hamas a Gaza, rispetto per esempio Barbara Cupisti è stata più volte recentemente nella West Bank e ha realizzato delle riprese e rispetto anche alla gente comune, uno dei rimproveri che si fa alla classe dirigente palestinese è rispetto all'attacco a Gaza, vista questo confronto che c'è tra Hamas e l'autorità nazionale palestinese, è un atteggiamento abbastanza neutrale rispetto invece a quanto avvenuto sul campo, insomma, non, a parte gli aiuti, però non c'è stata una netta presa di posizione e la gente rimprovera soprattutto questo all'autorità. Sì, perché di fatto Gaza ormai è sotto il controllo di Hamas e l'autorità se ne è un po' lavata le mani. Sì. Però quello che si poteva vedere sul campo era che anche, cioè, ancora a Gaza ci sono molti militanti di Fatah, più o meno tollerati. Sì. Se sostanzialmente tollerati, perché comunque sono in gran numero, saranno un 30%, 20-30% della popolazione fedele a Fatah. E prima della guerra c'erano ancora scontri tra Fatah e Hamas, c'erano comunque delle posizioni divergenti. Dal momento in cui la guerra è iniziata, siccome è stata totalmente, cioè non ha guardato in faccia nessuno, queste divergenze sono finite dal giorno, cioè l'indomani erano tutti posizionati sulla posizione di Hamas a Gaza. Per cui la guerra sicuramente non è servita a separare il campo palestinese, ma a estremizzare anche tra quelli di Fatah che erano a Gaza, si sono molto di più avvicinati alle posizioni di Hamas. E invece nella West Bank è successo che da un lato i politici hanno cercato di rimanere un po' più neutrali, hanno cercato di dare la colpa di quello che stava succedendo anche ad Hamas per poter guadagnare, insomma, i politici di Fatah, mentre la gente abbastanza orripilata da quello che stava succedendo si è avvicinato ad Hamas, però proprio con una forma di simpatia per coloro che in quel momento erano i più indifesi, per cui ci credo che nella West Bank sicuramente questa guerra non ha fatto bene a Fatah, non ha fatto bene alla leadership della West Bank, perché loro sono rimasti più neutrali, ma le persone si sono avvicinate a posizioni più radicali, perché per tutti quanti a Gaza, o coloro che conoscono qualcuno a Gaza, ormai hanno chiaro che gli accordi di Oslo non valgono niente nel momento in cui possono succedere queste cose. Allora, se capisco, ho capito bene quello che mi stai dicendo, allora questo attacco non ha minato la leadership di Hamas. Questo è sicuro, questa c'è una cosa certa, è questo è veramente per quel poco che ne ho potuto capire io, questa è una delle due cose certe probabilmente che ho capito, insomma. E appunto rispetto al dominio di Hamas, volevo chiederti se c'era in seguito all'attacco, o come risposta all'attacco, ci sono state invece forme di autogoverno da parte della popolazione, visto che comunque credo che a livello di infrastrutture si sia creato, e anche a livello di potere, un po' un vuoto. No, invece questa invece è la cosa, no. Che si vedeva proprio il contrario. Anche contrario. Nel momento in cui c'era questa ulteriore difficoltà, Hamas ha messo in campo tutta una rete di assistenza e di controllo che si è serrata ancora di più. Quindi il risultato è stato l'opposto rispetto assolutamente l'opposto. L'opposto, ma non rispetto a quello che desideravano, perché secondo me era chiaro che quello sarebbe stato il risultato. Sì. Insomma, non credo che in buona fede qualcuno potesse credere che questo attacco avrebbe indebolito Hamas. Sinceramente è stata una prova di forza in cui comunque tutti quelli che erano a Gaza sono stati schiacciati contro le posizioni di Hamas. Schiacciati da un punto di vista che sono stati trasformati tutti in vittime e tutti in un certo senso tutti in nemici, e nello stesso tempo quando tutti indiscriminatamente sono diventati dei nemici, tutti quanti si sono accorpati sulla posizione ideologica del nemico. È abbastanza, io ho filmato la parte centrale del film e mi sono trovato nell'obitorio dell'ospedale di Rafa, nella striscia di Gaza, è arrivato il corpo di un bambino di 12 anni che era stato ucciso mentre raccoglieva la legna in giardino, un ragazzino, un bambino piccolissimo. E c'era il padre che mi mostra il figlio, mi dice che aveva 12 anni, che cosa aveva fatto, ma noi comunque resisteremo per la nostra terra, che cosa aveva fatto. Nel pomeriggio sono andato a vedere dei funerali di martiri di Hamas, risultava i cartelli, martiri di Hamas, i nostri martiri, oggi i funerali. Sono andato a riprendere questi funerali e c'erano tre cadaveri. E io li ho filmati tutti, non rendendomi conto che uno di questi tre era il bambino di 12 anni che avevo visto la mattina. Me ne sono reso conto riguardando le immagini dopo, nonostante il padre fosse tra quelli che portavano la bara. Per cui il bambino di 12 anni, che il giorno prima era un bambino di 12 anni, nel momento in cui è stato ucciso assurge al ruolo di martire di Hamas. E questa è abbastanza proprio una sorta di fabbrica del martire, perché poi naturalmente tutta la famiglia del bambino non si allontanerà dalle posizioni di Hamas, anzi si diventerà, anche per desiderio di rivalsa, di vendetta, diventerà più estremista di quanto non lo fosse prima. Quindi ognuno, che poi tra l'altro non si distingue cioè i palestinesi non distinguono col termine morto al termine martire, chiunque sia morto in questo contesto viene automaticamente definito martire, e per la famiglia è considerato un onore avere il figlio martire. Poi magari in privato malediranno di trovarsi in questa situazione, però da un punto di vista sociale è considerato comunque qualcosa che è quasi auspicabile, quello di morire combattendo per la liberazione, per cui una volta che uno è morto, allora viene accettato. È difficile che qualcuno dica no, mio figlio non è un martire, mio figlio è morto per sbaglio. Sì. Senti Stefano, pronto? Ci sei? Sì. A questo punto vorrei passare anche dall'altra parte, nel senso, poco tempo fa sono cominciate a uscire delle dichiarazioni dei soldati israeliani che facevano luce sulle regole di ingaggio, che sostanzialmente lasciavano mano libera ai militari all'usanza degli scudi umani per le operazioni. sì, questo è forse il minore dei mali tra le cose che hanno fatto gli israeliani a Gaza, perché tra l'altro dopo aver finito le riprese sino alla tregua ho continuato a girare a Gaza per altre 2 settimane, sì. E ho fatto il mio prossimo film, che monterò spero sarà pronto tra 5-6 mesi, che racconta la storia di un intero quartiere in qualche modo massacrato a sangue freddo dalle truppe. Lo dico cosciente di quanto sia forte la cosa, e ho le prove, quindi non ne parlo così per sentito dire. Cioè, si parla di una famiglia di cui 30 persone sono state ammassate in una casa, e poi questa casa è stata distrutta con i carri armati. Quindi loro raccontano di regole di ingaggio anche molto peggiori. Cioè, io ho passato 2 settimane con un ragazzo che aveva aperto la porta di casa, i militari erano entrati, avevano chiesto al padre di mettersi, cioè di andare verso di loro con le mani in alto, e mentre lui si stava dirigendo verso i militari gli hanno sparato, e lui mi ha fatto vedere il punto in cui il padre era caduto. Quindi tutte queste ammissioni dei militari israeliani non mi stupiscono per niente. Cioè, il problema è capire adesso le responsabilità individuali, però che a Gaza siano perpetrati dei massacri a sangue freddo ci sono centinaia di prove. Io in questo, appunto perché non credevo a quello che mi raccontavano, in questo quartiere sono rimasto appunto 2 settimane e ho fatto circa 70 interviste. Mm-hmm. E tutti quanti mi ripetevano la stessa storia, cioè mm-hmm. di questa famiglia, nucleo familiare allargato, massacrato in questa maniera. Un'esecuzione di massa, sostanzialmente. Sì, diciamo, sono pratiche che loro adottano per intimorire il quartiere prima di entrarci. Mm-hmm. Loro sostanzialmente erano la famiglia che abitava ai margini del quartiere nel quale stavano entrando, per cui, e tra l'altro erano tutti, quasi nessuno era vicino, anzi, nessuno era vicino ad Hamas. C'era qualcuno che aveva votato nelle ultime elezioni per la Jihad Islamica, e c'erano, e la maggior parte di quelli del quartiere erano abbastanza vicini alle posizioni di Fatah. Si vedevano ancora delle un po' bruciate, ma delle bandiere gialle di Fatah che sventolavano agli angoli delle case, quindi è sicuro che non fosse un quartiere di Hamas. Però siccome avevamo la sfortuna di questo gruppo di famiglie di contadini di abitare nella zona del quartiere che era più vicina al punto di passaggio dei carri armati, loro sono arrivati, hanno fatto piazza pulita di questa specie di collinetta dove abitava questa famiglia, che gli sarebbe servito poi per attaccare il resto del quartiere. E tutti gli abitanti di questo quartiere di Al-Zaytun, che poi è un grosso sobborgo sud di Gaza City, sono scappati terrorizzati quando hanno saputo cosa era successo ai Samuni, proprio perché Samuni è il nome della famiglia, proprio perché sapevano che questa famiglia non aveva niente di particolare per avere subito questo trattamento. E quindi tutti sono scappati, hanno lasciato. In certo senso non c'è stato un vero combattimento in questo quartiere perché è stata fatta questa azione, diciamo, preventiva, mm-hmm. che però ha comportato la morte di più di 30 persone. Mm. Stefano, allora in chiusura volevo chiederti intanto se hai ricevuto critiche rispetto all'imparzialità del tuo lavoro, e poi se è possibile, se sarà prossimamente possibile vederlo da qualche parte. Allora, sull'imparzialità, cioè sulle critiche, al momento non ho potuto ricevere, sostanzialmente non l'ha ancora visto nessuno. Bene, quindi vedremo anche a Locarno. L'altro ieri. Per quanto riguarda il passaggio in Italia, per fortuna una versione più breve dello stesso documentario è stata acquistata da Rai 3, da Doc 3, andrà in onda il 17 settembre alle 11 di sera. Quindi, bene, quindi ci sarà modo anche di ricordarlo. Sì, sarà una versione da 52 minuti, il film invece ne dura 80, però sostanzialmente è simile, insomma l'argomento è lo stesso, parte delle immagini sono le stesse, insomma racconta comunque questo diario giorno per giorno di questi giorni della guerra di Gaza. Senti, fortuna si potrà vedere, poi arriveranno anche le critiche sicuramente. Bene, sul web c'è uno spazio riservato a questo documentario? Sì, c'è, ma c'è più che altro un'altra cosa importante. In realtà io sono partito per Gaza non per fare un documentario, ma per fare una web TV l'idea sostanzialmente di questo di andare a Gaza, l'idea di questo mio produttore Roberto Ruini, che ha detto: qua in televisione non sanno raccontare la guerra, andiamo a vedere se riusciamo a farlo noi con la televisione via web. Quindi noi siamo partiti e già dopo 2 giorni abbiamo cominciato a trasmettere attraverso il web, e la web TV si chiama www.dagaza.org, che esiste ancora, quindi Anche se ci sono gli stessi montaggi del film, diciamo le stesse immagini del film montate diversamente, quindi oltre allo spazio del sito che è www.pulsmedia.it. Scusa, lo puoi ripetere? Non si è sentito bene. È www.pulsmedia, pulsmedia.it / piombo fuso. Ok, e l'altra invece da Gaza. La web TV è da Gaza.org. Ok, comunque poi i siti sono legati, quindi se si arriva in uno si arriva automaticamente nell'altro. Bene, bene. Da Gaza si vedono invece i video che giorno per giorno mettevi in linea da lì, per cui anche un'altra maniera di raccontare questa tragedia, che era quella giorno per giorno quando ero lì. Stefano, un abbraccio e in bocca al lupo. A presto. A presto. Ciao. Ciao. Questo era Stefano Savona, regista del documentario Piombo Fuso, che sarà in programmazione a Locarno l'11 agosto. Passiamo ai nostri visionari. Bentrovato. Ciao Federico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Tutto bene? Tutto a posto. Oh. Sì. Le ferie sono lontane, ma. Poi tra l'altro non ti ho visto alle ultime proiezioni, quindi mi chiedevo, ma sarà in vacanza? No, sono impegnato su altri fronti al momento. Ho capito. E quindi sto andando adesso a una proiezione. Sì. Il blockbuster di settembre me lo vedo adesso, quindi. Sono molto ansioso, capire un film di Steven Sommers, come farne a meno, direi. Però. Questo è. Senti, allora, questa settimana esce solo un film, però noi è qualche settimana credo che non ci sentiamo, se non sbaglio. Quindi rispetto alle cose già in programmazione, se vuoi segnalare qualcosa fai pure. Guarda, più che di qualcosa che è già uscito, io vorrei fare una breve anticipazione su un film che uscirà a fine mese. Come no, vai. Il 28 agosto, sì. Ed è un film per me notevole, ed è un peccato che sia stato piazzato in quel nefasto periodo che è appunto la fine dell'estate. Si tratta del secondo film di Jonathan Levin, che aveva esordito con un horror anche abbastanza particolare e interessante. Con Ben Kingsley tra i protagonisti, si intitola Fa la cosa sbagliata. Sì, l'ho visto e anche recensito, sono d'accordo, è un film da segnalare sicuramente. Perché la storia può sembrare più o meno sempre la solita faccenda, insomma il ragazzo un po' sfigato, anche se in realtà fa lo spacciatore, quindi insomma è una situazione anche già quella abbastanza singolare. Di solito gli spacciatori sono sempre i personaggi tra virgolette fichi nei film, invece lui riesce ad essere un outsider totalmente sconclusionato e privo degli agganci giusti, nonostante appunto faccia un lavoro che solitamente nel mondo dei teenager è guardato con assoluto rispetto. Tra l'altro lui ci mantiene anche i genitori in parte, no? Esattamente. La storia appunto di questo passaggio all'età adulta di cui il cinema americano è pieno, però raccontato con uno stile fresco, sì. Nuovo, con un Ben Kingsley molto bravo che rischiava seriamente di sposare nella macchietta. È un personaggio che, per fare un esempio per gli ascoltatori, ricorda molto da vicino il Michael Douglas di Wonder Boys, questo sì. Professore un po' hippie, un po' fallito, un po' schiacciato dalla vita, che si rifugia nel consumo di droghe e tutto quanto, mentre questo tipo di personaggio non riusciva affatto, secondo me, a Michael Douglas in Wonder Boys. Ben Kingsley ne tira fuori un personaggio molto, molto divertente e molto azzeccato, Ed è una storia molto gradevole, io l'ho trovato decisamente innovativo, nonostante appunto non racconti questa storia particolarmente originale. Il passaggio all'età adulta è uno dei miti fondativi degli Stati Uniti, quindi insomma questo anche segnato nel loro paese da questo viaggio che i ragazzi fanno per andare al college, in cui escono ufficialmente da casa. Ed è un tipo di storia che appunto poteva essere molto banale, molto semplice da raccontare. Jonathan Levin lo fa con uno stile molto, molto interessante, no? Sì. Quindi insomma è un consiglio che mi sento di dare per iniziare al meglio la prossima stagione cinematografica, perché i primi di settembre troveremo davvero G.I. Joe di Steven Sommers, che mi vado a vedere adesso, che sarà parto iper prevenuto nei confronti di questo film. Senti caro, allora noi ci salutiamo, ci sentiamo a fine mese, divertiti. Perfetto. E riposati pure, insomma. Senz'altro, non mancherò. Adesso vi faccio le ultime due settimane di forcing estremo e poi appunto mi lascerò un po' andare. Bene. Ciao, a presto, un abbraccio. Buona vacanza anche a te Federico, un saluto a tutti. Sì, ciao. Ciao. Marco Catola, eccomi. Oh. Allora, no, dulcis in fundo. Infatti, dulcis in fundo, ma dobbiamo cominciare con una notizia bruttissima, tristissima, direi funerea. Funerea. Praticamente, io lo dico per i miei fan soprattutto, ma io quest'anno non sarò a Venezia. Cioè, no, voglio dire, dopo questa notizia direi che insomma Radio Onda Rossa può chiudere i battenti, non sarò questa a Venezia. Questa trasmissione non ha più senso. Cioè, non ha un senso la trasmissione senza di me a Venezia. Vabbè, io non lo so, non sarò a Venezia, vabbè. Anche perché devi essere il mio principale referente. Sì, i miei, andare. Va ripensato tutto, quindi. Infatti, cioè, ti rendi conto, io l'ho detto in anticipo, dovete rifare tutte le scale e tutto. Non passerò delle buone vacanze, sicuramente. Purtroppo, no, mi dispiace, il Ferragosto sarà funereo, ve l'ho detto. No, io direi anzi di fare un'onoranza funebre a me per tutte le prossime. Lo passerei anche a casa al buio, questo Ferragosto, sì. Morte di Catola a Venezia, cioè morte a Venezia. Morte a Venezia, un po' così, sì. Vabbè, comunque, no, che dire? Salutiamo. No, nel senso, le uniche cose che, cioè le uscite praticamente sono state veramente tutte l'insegna dell'invisibilità e del nonsense, diciamo. Sì. Io vi posso soltanto parlare di un'uscita che, se non sbaglio, è avvenuta la scorsa settimana, che è l'unico film che ho recuperato, che è Kill Shot di John Madden. Ah, che non l'ho visto. Non l'ho visto perché voglio dire, c'è Catola, sei molto più importante, c'è Catola. Capisci? No, insomma, capolavoro. No, scherzo. No. Ti siete persi? No, scherzo. No, ma no, però vabbè, bisogna fare però una storia di questo film innanzitutto, perché John Madden, tu saprai benissimo che John Madden No, dai, sto scherzando, è il regista di Shakespeare in Love, voglio dire, cioè che ha avuto un'escalation in negativo, cioè perché dopo ha fatto il mandolino del capitano Corelli, poi Proof, e diciamo che si è arenato completamente con questo kill shot, perché questo kill mi sa invece shot... a me era piaciuto qualcosa che ha fatto prima di Shakespeare. Prima di Shakespeare in Love. Ah, mi vuoi mettere in difficoltà. ma io as I'm from, no, troppo vecchio, no, mi ricordo, no. Assolutamente, che cazzo, no, perché ora mi vuoi mettere in... no, che cavolo è? Resti ah, così. Quello della sua Mrs. Brown, sua Mrs. maestà. Brown, esatto. Ah, vedi, esatto. Ma volevi fare il furbo con me? Volevi mettermi in difficoltà? E t'ho sgamato, dai. No, adesso sto scherzando. Comunque, no, questo film, nel senso che anche il solito caso di che sulla carta... un capolavoro, perché vabbè, John Madden alla regia, cast variegatissimo con Diane Lane, Mickey Rourke, Thomas Jane, Rosario Dawson, Joseph Gordon-Levitt, ti è piaciuta la mia pronuncia, e sublime. Soprattutto sceneggiatura tratta da romanzo omonimo di Elmore Leonard, che voglio dire, insomma, è il nostro vecchio, buon vecchio Elmore Leonard, classe 1925, che aveva già scritto tantissimi romanzi. Lui è considerato il cosiddetto crime novelist, ormai oggi veramente poliglotta, cioè praticamente una sorta di a metà tra il poliziesco e il noir, quindi insomma, suoi libri bellissimi, soprattutto ricordiamo anche trasposizioni cinematografiche riuscite come Jackie Brown, che per me rimane the top of Quentin Tarantino, ma anche Out of Sight di Soderbergh, quindi voglio dire, cioè, insomma, abbastanza. Questo film è un po' meno riuscito, nel senso che la storia, dico velocissimo, praticamente di due marito e moglie che diventano testimoni di un tentativo di estorsione da parte di due killer, uno appunto è Mickey Rourke, che no, poverino, come al solito non si può guardare perché veramente gli fanno dei primi piani, è distrutto, e l'altro è Joseph Gordon-Levitt, che è questo giovane talento, che è il protagonista di Mystic River di Greg Araki, molto bravo, che qui però secondo me fuori parte perché fa un giovane psicopatico. E praticamente cosa succede? Che loro vengono poi, questa coppia, avendoli visti in faccia, diciamo, vengono inseriti in un programma, il solito programma federale di protezione. In realtà i due killer non fanno parte della mafia, comunque non sono così pericolosi da inserirli in questo programma di protezione, però poi vengono chiaramente trovati dai due killer, e quindi c'è lo scontro finale tra i presunti innocenti cittadini e questi spietati killer. Chiaramente non vi dico come andrà a finire. Voglio dire, come andrà a finire? Non, siamo qui che ce lo chiediamo. Infatti, però... è abbastanza prevedibile. No, purtroppo non è molto riuscito, perché non saprei bene. Sembra più un film televisivo, c'è poco ritmo. Purtroppo. Noir poliziesco, insomma, l'azione. Poi Thomas Jane, diciamo che non è questa aquila della recitazione, quindi insomma, un po' meglio Diane Lane, sempre in strepitosa forma. E sto povero Mickey Rourke, che a parte The Wrestler, che io riconfermo a dire che The Wrestler è Mickey Rourke, quindi è un caso a parte, purtroppo esteticamente, con queste cose che si è fatta addosso un po' alla Michael Jackson, non gliela fa. Allora Marcolino, senti un po', e invece per le uscite agostane, io vi posso innanzitutto io ti volevo intanto chiedere se hai visto intanto un film di cui abbiamo parlato poc'anzi con Piercarlo, Fa la cosa sbagliata e poi Il mistero della pietra magica di Rodriguez. Allora io ho apprezzato entrambi, devo dire. Allora io invece vi posso dire che ho fatto la cosa sbagliata, nel senso che non ho visto nessuno dei due, quindi non vi posso parlare. Okay. Devo dire però che Fa la cosa sbagliata, ho sentito veramente tutti parlarne bene. La pietruzza un po' di meno, nel senso che io l'avevo trattata però prima di vederla, rispetto a questo film, sapevo di Rodriguez, questo ritorno al Spy Kids, diciamo, al genere Spy Kids che lui tanto adora, però non ne avevo sentito parlare tanto bene, però se a te è piaciuto tutti e due, io mi nei limiti di un film per bambini, sì, insomma. chiaramente, io mi fido del nostro amico Raponi, ragazzi, cioè poi cavoli vostri, ha detto Raponi gli è piaciuto, andate a vedere, poi cavoli vostri, no, sto scherzando, no, comunque, sì, no, io invece volevo soltanto segnalarvi, siccome ora c'è Locarno, io credo che sarà in uscita il 21 o il 28 agosto il film di Pasquale Marazzo sogno, il mondo, il venerdì, che è un film indipendentissimo, se non sbaglio distribuzione La Fabbrichetta, che fa capo a Gianluca Arcopinto. Quindi io vi consiglio, basta con questo accento, non mi piace? No, no, scusami, ma io voglio fare, cioè io sono international, cioè io non vado a Venezia, però I'm international. Vabbè, finché è sui titoli in inglese ti puoi sbizzarrire quanto vuoi. In effetti è vero, ma Arcopinto, dare un accento inglese a un nome italiano, cioè, mi pare, hai ragione, un po' dall'urio. Sì, effettivamente hai ragione, su questo concordo. No, vabbè, quindi Sogno il mondo di venerdì, che è un film veramente stranissimo, nel senso, Pasquale Marrazzo ha un suo perché, ha un suo passato, altri film sempre invisibilissimi, indipendentissimi, con tematiche inerenti l'omosessualità in genere, comunque anche il disagio giovanile, il ritratto, insomma, sociale, diciamo, l'affresco sociale, e in questo caso diciamo che c'è più una pansessualità, ci sono, diciamo, omosessuali, transessuali, varie storie. La pansessualità era quella, la mia, la teorizzata da Marlon Brando e anche praticata, insomma. Ah sì, ecco, ma voglio dire, lo vedi, cioè, ma lo capisci, io come Marlon, tu come Marlon? Marlon. No, praticamente, vabbè, riguarda un musical, come l'ha definito il stesso regista, un musical sul lavoro, oddio, no, perché ad un certo punto gli attori in camera cantano, è ambientato tutto a Milano, è un film molto particolare, è presente nei cineasti del presente, a proposito, scusate la ripetizione, a Locarno, quindi non è in concorso, perché come sapete quest'anno a Locarno non c'è nessun italiano in concorso, però insomma è un film di genere molto particolare, di genere, oddio, non esagerato, un film particolare, ecco, insomma, che di nicchia, ecco, che comunque va salvaguardato, comunque è un film coraggioso, quindi viva Marrazzo, viva La Fabbrichetta, e viva Sogno al mondo il venerdì, e dateci anche a noi il venerdì, che non se ne può più, dai, oggi scatenato, incontenibile, incontenibile, vai in vacanza presto, per non carità. Ci posso andare, non ci vado, questo è il problema, forse, capisci, sarò a Roma tutto. Senti, vabbè, vuoi fare dei saluti a chi ci ascolta? Sì, saluto tutti, andate al cinema, tutte, sì, vabbè, tutti e tutte, tutti, dai, tutti, poi? transessuali anche, saluto anche i miei amici trans, mi è piaciuto. Bravo. E da partire dal 14 ricomincerà, diciamo, la stagione, quindi tutti al cinema, nonostante il caldo, che tanto c'è l'aria condizionata, cinema, viva il cinema, viva il cinema. E su questo noi ci salutiamo, io ti abbraccio, ok, e ti lascio qui a Roma, devi soffrire un po' dopo Venezia, dopo la botta che ci hai dato su Venezia, mamma mia, devi, raga. Vabbè, la devi un po' pagare, fan, fatevi una ragione. Ciao, fra qualche settimana. Ciao. Oh, chiudiamo qui, l'appuntamento quindi è per l'ultima settimana di agosto, buon proseguimento e buone vacanze per chi le farà. E a presto. Ciao.